squilla più, il tuo ragazzo ha preso il volo. Buona domenica, tanto tua madre lo capisce, continua a dirti ma non esci mai, perché non provi a divertirti. Buona domenica, quando misuri la tua stanza, finestra a letto e la tua radio che continua a dirti che è domenica. Ciao, ciao domenica, passate a piangersi i libri, tanto lo sai che non ti tremola, e poi è domani che ti frega. Con quegli idioti che ti guardano e che continuano a giocare. Ciao, ciao domenica, e tua sorella parla, parla con quello sguardo da imbecille, poi apre la porta alla domenica. Sol, aspetta ancora un...